Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Passaggio in India, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Adriana Motti. Erano arrivati all'ospedale. Fildi proseguì oltre da solo. Era seccato con se stesso, ma contava sul pranzo per aggiustare le cose. All'ufficio postale vide l'intendente. I loro veicoli erano fermi l'uno accanto all'altro, mentre i loro servi gareggiavano all'interno dell'edificio. «Buongiorno. Sicché siete tornato?» disse Tarton gelidamente. «Sarei lieto se stasera vi faceste vedere al circolo.» «Ho accettato di essere riaccolto come socio, signore. Ritenete necessaria la mia presenza? Vi sarei grato se mi esoneraste. A dire il vero, stasera ho un impegno per il pranzo.» «Non si tratta delle vostre preferenze, ma del desiderio del governatore. Forse mi domanderete se vi sto parlando in veste ufficiale. Infatti, vi aspetto stasera alle 6. Non ostacoleremo i vostri programmi successivi.» Così, all'ora fissata, Fielding assistette alla piccola e sinistra cerimonia. Gli scheletri dell'ospitalità crocchiavano. «Prendete un liquore, prendete un bicchierino.» Fielding parlò col maggiore Roberts, il nuovo chirurgo civile, e col giovane Milner, il nuovo magistrato di città, ma più il circolo cambiava, più prometteva di rimanere lo stesso. «Non serve a niente», pensò Fielding, mentre sulla via del ritorno passava davanti alla moschea. «Costruiamo tutti quanti sulla sabbia, e quanto più moderno diventa il paese, tanto più grave sarà il crollo. Nel lontano XVIII secolo, quando imperversavano la crudeltà e l'ingiustizia, un potere invisibile riparava i loro danni. Oggi tutto fa eco, e non c'è niente che fermi quell'eco. Il suono iniziale può essere innocuo, ma l'eco è sempre malvagia.» Questa riflessione intorno a un eco si aggirava sull'orlo della sua mente. Egli non riusciva mai a svilupparla. Apparteneva all'universo che Fielding aveva ignorato o respinto. E anche la moschea lo ignorava. Al pari di lui, quei portici esigui non offrivano che un asilo limitato. «Non c'è altro Dio che Dio» non ci porta lontano nelle complessità della materia e dello spirito. Non è che un gioco di parole, in realtà, uno scherzo religioso, non una verità religiosa. Fielding trovò Aziz stanco morto e scoraggiato e decise di non parlare del loro malinteso se non alla fine della serata. Allora il discorso sarebbe stato più accettabile. Vuotò il sacco a proposito del circolo, disse che c'era andato soltanto perché costretto e che non ci avrebbe più messo piede fino a nuovo ordine. In altre parole, mai probabilmente, perché andrò presto in Inghilterra. «Lo immaginavo che forse finivate in Inghilterra», disse Aziz tranquillo e cambiò discorso. Pranzarono con un certo impaccio, poi andarono a sedersi nel padiglione dei Mogul. «Sì, ma mi ci fermerò ben poco. Vado in missione. I miei capi non vedono l'ora di allontanarmi per un po' da Chandrapur. Sono costretti a portarmi in palmo di mano, ma non mi vedono di buon occhio. La situazione è un po' umoristica.» «Di che missione si tratta?» chiese Aziz. «Vi lascerà molto tempo libero?» «Abbastanza, per vedere i miei amici.» «Sì, mi aspettavo una risposta del genere. Siete un amico fedele. Vogliamo parlare d'altro?» «Volentieri», rispose Fielding. «Di che cosa?» «Di poesia», disse Aziz con le lacrime agli occhi. «Discutiamo perché la poesia ha perso il potere di rendere coraggiosi gli uomini. Anche il padre di mia madre era poeta e ha combattuto contro di voi nell'ammutinamento. Potrei eguagliarlo se ci fosse un altro ammutinamento. E invece sono un medico che ha vinto un processo e ha 3 figli da mantenere e il cui principale tema di conversazione sono i provvedimenti burocratici.» «Bene, parliamo di poesia», concordò Fielding e rivolse la mente a quel tema senza pericoli. «Vi trovate tutti in una situazione triste. Di che cosa dovete scrivere?» Non potete continuare a dire in eterno «la rosa è appassita». Lo sappiamo che è appassita. Ma non potete nemmeno avere una poesia patriottica sul tipo «India, India mia», visto che non c'è un'India di nessuno. «Mi piace questa conversazione», commentò Aziz. «Può portarci a qualcosa di interessante». «Avete perfettamente ragione di pensare che la poesia debba toccare la vita. All'inizio della nostra conoscenza ve ne servivate come di un incantesimo». «All'inizio della nostra conoscenza ero un bambino», concluse Aziz. «Tutti erano miei amici, allora. L'amico, un'espressione persiana per dire Dio». Aziz sospirò. «Eh sì, ognuno per sé. Chi ha bisogno di una giacca, chi di una moglie ricca. Ognuno arriva alla meta con un abile giro». Fielding aveva ereditato alla ragazza un'ammenda di 20.000 rupie e adesso la seguiva in Inghilterra. Se voleva sposarla, era tutto chiaro. Lei gli avrebbe portato una dote più cospicua. Aziz non credeva ai propri sospetti. Sarebbe stato meglio, perché in quel caso avrebbe parlato a viso aperto e chiarito la situazione. Il sospetto e la fiducia potevano coesistere nella sua mente l'uno accanto all'altra. Nascevano da sorgenti diverse e non avevano bisogno di mescolarsi. Nell'orientale il sospetto è una specie di tumore maligno, una malattia della mente che d'improvviso lo rende imbarazzato e ostile. Si fida e insieme diffida in un modo che l'occidentale non può comprendere. Quello è il suo demone, come per l'occidentale è l'ipocrisia. Aziz ne fu afferrato e la sua fantasia costruì un castello diabolico, le cui fondamenta erano state gettate mentre Adilkusha parlava sotto le stelle. La ragazza era stata di certo l'amante di Fielding quando aveva abitato all'istituto. Mohammed Latif aveva ragione. Ma era tutto? Forse era stato Fielding a seguirla nella grotta? No, no, impossibile. Fielding sul Cawa Dol non c'era andato nemmeno. Impossibile, ridicolo. Ma quella fantasia lo lasciò tremante di dolore. Quel tradimento, fosse stato vero, non ne sarebbe esistito uno peggiore in tutta la storia dell'India. L'indomani decise di riaccompagnare i suoi figli a Mussoria. Erano venuti per il processo affinché lui potesse congedarsi da loro e si erano poi fermati in casa di Hamidullah per i festeggiamenti. Il maggiore Roberts gli avrebbe dato il permesso e durante la sua assenza Fielding sarebbe partito per l'Inghilterra. Quel programma conveniva alla sua fiducia come al suo sospetto. Gli eventi avrebbero dimostrato quale dei due fosse giusto e avrebbero salvato comunque la sua dignità. Fielding avvertì qualcosa di ostile e siccome voleva realmente bene ad Aziz, il suo ottimismo ebbe un crollo. Viaggiare senza bagagli non è più tanto facile quando c'è di mezzo l'affetto. Incapace di lasciar correre nella serena speranza che tutto sarebbe andato per il meglio, gli scrisse una lettera elaborata e in uno stile piuttosto moderno. «Mi sono messo in mente che in fatto di donne mi giudichiate troppo pieno di pregiudizi. Preferirei che di me pensaste qualunque altra cosa. Se adesso vivo in un modo irreprensibile è solo perché da un pezzo ho superato i 40, un'età di revisione. Dopo gli 80 tornerò a rivedere e prima che arrivino i 90 la revisione la subirò io. Ma vivo o morto sono del tutto privo di moralismi. Questo ficcatevelo bene in testa per piacere». Ad Aziz quella lettera non piacque affatto. Urtava la sua sensibilità. Lui amava le confidenze, per quanto spudorate, ma trovava sempre scostanti i giudizi generali e comparativi. La vita non è un manuale scientifico. Rispose freddamente, rammaricando di non poter tornare da Mussorie prima che l'amico partisse. «Ma devo prendere la mia povera piccola vacanza quando posso. D'ora in avanti tutto deve essere economia. Tutte le speranze del Kashmir sono svanite e svanite per sempre. Quando tornerete, io sarò chissà dove, a sgobbare in qualche nuovo impiego. E Fielding partì. E negli ultimi sgoccioli di Chandrapur, cielo e terra simili entrambi a zucchero caramellato, i cattivi pensieri degli indiani trovarono conferma. I suoi amici li alimentavano, perché nonostante la simpatia che avevano avuta per il direttore, li imbarazzava che lui fosse arrivato a conoscere così a fondo le loro faccende personali. Mahmud Ali dichiarò ben presto che il tradimento era in pieno sviluppo. Hamidullah andava mormorando, certo da ultimo non ci parlava con la franchezza di prima, e avvertiva Aziz, «Non aspettarti troppo, in fondo quei due appartengono a un'altra razza». «Dove sono le mie 20.000 rupie?» pensava il giovane Aziz. Era del tutto indifferente al denaro, non soltanto generoso, ma pronto a pagare subito i suoi debiti quando riusciva a ricordarsene, e tuttavia quelle rupie lo ossessionavano, perché gli erano state truffate, e lui aveva consentito che finissero oltreoceano, come tante altre ricchezze dell'India. Fielding avrebbe sposato Miss Quested. Per lui divenne una certezza, a cui cooperava tutto l'inesplicabile residuo del Marabar. Era la logica conclusione di quell'orribile, insensato picnic, e ben presto egli si persuase che le nozze erano già avvenute. L'Egitto era un incanto. Un verde e lungo tappeto sul quale camminavano su e giù quattro specie di animali e una sola specie di uomo. Le incombenze di Fielding ve lo trattennero per qualche giorno. Si rimbarcò ad Alessandria, cielo di un vivido azzurro, vento uniforme, costa bassa e sgombra a paragone delle frastagliature di Bombay. Poi lo accolse Creta con la lunga, nevosa catena dei suoi monti e poi venne Venezia. Non appena sbarcato sulla piazzetta, gli fu offerta alle labbra una coppa di bellezza che egli bevve con un senso di slealtà. Gli edifici di Venezia, come le montagne di Creta e i campi d'Egitto, erano al posto giusto, mentre nella povera India tutto era fuori posto. Tra i templi degli idoli e i monti gibbosi, lui aveva dimenticato la bellezza della forma. Ma senza forma, come può esistere bellezza? La forma balbettava qua e là in una moschea, diventava perfino rigida nella sua nervosità. Ma queste chiese italiane, San Giorgio, sorgente sull'isola, che non sarebbe potuta emergere dalle onde senza di lei, la Salute all'entrata di un canale che non sarebbe il Canal Grande se questa vi mancasse. Nei lontani giorni universitari egli si era avvolto nella variopinta coltre di San Marco, ma adesso gli si offriva qualcosa di più prezioso che i mosaici e i marmi. L'armonia tra le opere dell'uomo e la terra che le porta, la civiltà scampata alla confusione, lo spirito in forma ragionevole in cui pure permangono la carne e il sangue. Scrivendo cartoline illustrate ai suoi amici indiani, sentì che a tutti loro sarebbero sfuggite le gioie che lui provava adesso, le gioie della forma, e che questo costituiva una grave barriera. Di Venezia loro avrebbero visto la sontuosità, non la modellatura. E anche se Venezia non era l'Europa, faceva parte dell'armonia mediterranea. Il Mediterraneo è la norma umana. Quando gli uomini lasciano quel lago incantevole, attraverso il Bosforo o attraverso le colonne d'Ercole, vanno incontro al mostruoso e allo straordinario. E lo sbocco a sud porta alla più strana di tutte le esperienze. Tornando ancora una volta a girarle le spalle, egli prese il treno diretto a nord. E delicate e romantiche fantasie che aveva credute morte per sempre rifiorirono quando vide i ranuncoli e le margherite di giugno. Alcune centinaia di miglia a ovest dei monti Marabar e a 2 anni di distanza nel tempo, il professor Narayan Godbole sta alla presenza di Dio. Dio non è nato ancora, questo avverrà a mezzanotte, ma è anche nato secoli or sono, e non può mai essere nato, perché è il Signore dell'universo che trascende il volgersi delle cose umane. Egli è, non è stato, non è, è stato. Egli e il professor Godbole stavano ai due capi dello stesso lungo tappeto. Tukaram, Tukaram, sei mio padre e mia madre e tutti. Tukaram, Tukaram, sei mio padre e mia madre e tutti. Tukaram, Tukaram, sei mio padre e mia madre e tutti. Tukaram, Tukaram, sei mio padre e mia madre e tutti. Tukaram, Tukaram. Questo corridoio del palazzo di Mau dava attraverso altri corridoi in un cortile. Era di un duro e bello stucco bianco, ma i suoi pilastri e la volta si intravedevano appena dietro una massa di stracci colorati, globi iridescenti, lampadari di opaco vetro rosa e cupe fotografie incorniciate per istorto. In fondo c'era il piccolo ma famoso santuario del culto dinastico, e il dio che doveva nascere non era poi che un'immagine d'argento non più grande di un cucchiaino da tè. Gli indù sedevano dalle due parti del tappeto dove riuscivano a trovare posto e traboccavano nei corridoi attigui e nel cortile. Indù, soltanto indù, uomini dalle fisionomie dolci, per lo più contadini, per i quali ogni cosa al di fuori dei loro villaggi svaniva come un sogno. Erano i sudditi, i contadini dal duro lavoro che alcuni chiamano la vera India. Sparsi tra loro sedevano commercianti della cittadina, funzionari, cortigiani, rampolli della casa regnante. Gli studenti tenevano un ordine molto approssimativo. La moltitudine si trovava in uno stato tenero e felice, sconosciuto a una folla inglese. Ribolliva come una pozione benefica. Quando ruppero i cordoni per dare uno sguardo all'immagine d'argento, una bellissima e radiosa espressione apparve sui loro volti. Una bellezza che non aveva nulla di personale, perché nell'attimo in cui si mostrò li rese tutti somiglianti gli uni agli altri, e solo quando si ritrasse ognuno tornò alla propria argilla individuale. Lo stesso succedeva con la musica. C'era una musica, ma sgorgava da tante fonti che il suo insieme era un dilagare sfrenato. Tutto quello strombettare, rullare, salmodiare si fondeva in una sola massa che si trascinava per tutto il palazzo prima di unirsi al tuono. La pioggia cadde a intervalli per tutta la notte. Era passato un bel pezzo da quando quel minuscolo frammento del professor Godbole, che badava alle cose esterne, decise che il suo pince-nez si trovava in posizione precaria e che soltanto dopo averlo rimesso a posto lui avrebbe potuto scegliere un nuovo inno. Posò un cembalo, percosse l'aria con l'altro e intanto con la mano libera annaspava tra i fiori che aveva intorno al collo. Un collega lo aiutò. Cantandosi a vicenda nei baffi grigi, liberarono la catenella del ciarpame nel quale era sprofondata. Godbole consultò il libro di musica e disse una parola al suonatore di tamburo, che spezzò il ritmo, fece un piccolo denso scarabocchio di suono e attaccò un ritmo nuovo. Questo era più esaltante, le immagini intime che evocava erano più definite e le espressioni dei cantori si fecero vacue e languide. Amavano tutti gli uomini, l'intero universo, e briciole del loro passato, piccolissime schegge di particolari, affiorarono un istante per fondersi nel calore universale. Così Godbole ricordò una vecchia donna che aveva incontrata ai tempi di Chandrapur, anche se per lui non era importante. Fu il caso di ricondurgliela in mente quando era in quello stato di esaltazione. Non lui l'aveva scelta. Essa capitò, chissà come, nella folla di immagini suggestive, una piccola scheggia, e lui la spinse con la propria forza spirituale verso quel luogo dove è dato di trovare la completezza. Completezza, non ricostruzione. I sensi di Godbole divennero più affinati. Egli ricordò una vespa veduta non sapeva più dove, forse su una pietra. Amò anche la vespa. Ugualmente la spinse. Stava imitando Dio. e la pietra su cui posava la vespa, lui non avrebbe potuto... No, non poteva. Aveva sbagliato a tentare la pietra. Lo sforzo logico e conscio l'aveva sedotto. Egli tornò alla striscia di tappeto rosso e scoprì che vi stava danzando sopra. Su e giù, un terzo del percorso fino all'altare, poi da capo indietro, sbattendo i cimbali, le esili gambe che tremavano, i compagni che danzavano con lui e tra loro. Rumore. Rumore, la banda sempre più fragorosa, incenso sull'altare, sudore, lo sfaviglio delle luci, vento nei banani, rumore, tuono, le 11:50 al suo orologio da polso che lui vide mentre gettava in alto le mani e distaccava da sé quel piccolo riverbero che era la sua anima. Grida più forti nella folla, lui continuò a danzare. I bambini e gli uomini accosciati nelle navate furono tirati su di peso e scagliati senza che cambiassero posizione sulle ginocchia dei più vicini. Lungo la strada così sgombrata avanzava una lettiga. L'orologio batté la mezzanotte e simultaneamente esplose il suono stridulo della buccina, seguito da un barrire di elefanti. Tutti quelli che avevano pacchetti di polvere li scagliarono verso l'altare e tra lo spolverio rosato e l'incenso, lo strepito e le grida, l'amore infinito assunse la forma di Sri Krishna e salvò il mondo. Tutto il dolore fu eliminato, non per gli indiani soltanto, ma per gli stranieri, gli uccelli, le grotte, le ferrovie e le stelle. Tutto divenne un gioire, un ridere. Non erano mai esistiti né infermità né dubbio, incomprensione, crudeltà, paura. Alcuni saltavano in aria, altri si gettavano proni e abbracciavano i piedi nudi dell'universale amante. Le donne, dietro la tenda, emettevano schiocchi e strilli. La bambinetta sgusciò fuori e ballò da sola, con le nere treccine svolazzanti. Non era un'orgia del corpo. La tradizione di quel santuario lo vietava, ma lo spirito umano aveva tentato, con una disperata contorsione, di afferrare l'ignoto, abbattendo scienza e storia nello sforzo, e sì, anche la bellezza. C'era riuscito? I libri scritti in seguito dicono sì. Ma se un simile evento accade, come si può ricordarlo in seguito? Come può essere espresso altrimenti che con la cosa stessa? I misteri non sono celati soltanto al miscredente. Nemmeno l'iniziato può rammentarli. Può pensare, se vuole, d'essere stato con Dio. Ma non appena lo pensa, questo diventa storia e cade sotto le leggi del tempo. I corridoi, il cortile, erano pieni di una benevola confusione. Anche le mosche si svegliarono e pretesero la loro parte di quell'abbondanza di Dio. Non c'erano dispute, grazie alla natura del dono, perché beato colui che lo cede a un altro, egli imita Dio. E quelle imitazioni, quelle sostituzioni, continuarono a guizzare nella folla per molte ore, destando in ognuno, secondo le sue capacità, un'emozione che altrimenti egli non avrebbe provata. Nessuna immagine definita sopravvisse. Alla nascita era discutibile che cosa fosse nato, se una bambola d'argento o un villaggio di fango, un pannolino di seta, uno spirito impalpabile o un pio proposito. Forse tutte queste cose, forse nessuna, forse ogni nascita è un'allegoria. E non di meno era l'evento più importante dell'anno religioso. Suscitava strani pensieri. Coperto di grasso e di polvere, il professor Godbole aveva sviluppato una volta di più la vita del suo spirito. Aveva, con crescente vivezza, rivisto Mrs. Moore e tutti intorno a lei una debole emanazione di forme di inquietudine. Lui era un bramino, lei era cristiana, ma questo non aveva nessuna importanza. Non importava se quella donna era uno scherzo della sua memoria o un appello telepatico. Era suo dovere e anche suo desiderio di mettersi al posto del Dio e di amarla, e di mettersi al posto di lei e dire al Dio: «Vieni,